Bene, seconda parte di 451 frammenti sonori che inizia proprio in questo momento con in sottofondo vari intona rumorismi, potremmo dire, visto che qua questa sera dedicata completamente all'arte del rumore, chiaramente insomma con riferimento allo storico manifesto futurista di Luigi Russolo e tutte le varie poi faccende collegate, non poche faccende che per tutto il Novecento nei momenti di avanguardia sono state appunto riprese o rielaborate o sviluppate e per tanti aspetti anche proprio aperte veramente e anche trovando quei nessi insomma molto sottaciuti della grande potenzialità estetica, artistica e di linguaggio poi globale che appunto l'arte dei rumori di Luigi Russolo aveva e ha tuttora come possibilità. Se poi anche nella seconda parte metteremo vari americani, quindi rumorismo recente, si capisce insomma che non è stato soltanto seminale quel manifesto e quel tentativo utopico, ciclopico di assalto al cielo, ma è stato veramente qualcosa di assolutamente fondativo che ancora ha dentro insomma la grande voglia e anche forse capacità di cambiare il linguaggio e quindi anche cambiare il mondo, il tentativo utopico che da più di 150 anni tentiamo di fare anche noi nel nostro piccolo. Ma 150 anni. Sai com'è, quel famoso barbone, no? Che scriveva quelle robacce. Ma ci sono state, dai, le realizzazioni. Sì. Vabbè. No, vabbè, ci sono stati esperimenti. Cosa possiamo... Ci recuperiamo la comune di Parigi. Poca roba, però. Il primo periodo di Cuba, il primo periodo dei Soviet. Appunto, l'Unione Sovietica, poca roba, però. Sì, poca roba. Sì, insomma. Vabbè. Sakamoto, altro che quella quell'ipotesi. Mo ci abbiamo, che siamo un finimo creativo, se facciamo così. Ci abbiamo il partito dei padroni direttamente. Prossime elezioni ci saranno due partiti: il partito dei padroni e il partito dei padroni 2. E basta, che faranno competizione. Meraviglioso. Dopo la P2, il PDP 2, PPP2. Andiamo a presentare il prossimo autore che aprirà, diciamo, la seconda parte dell'arte del rumore, trasmissione che è iniziata nella prima parte con, ricordiamola ancora, lo splendido lavoro di Daniele Lombardi e il lavoro di Silvano Bussotti, oltre a Vivenza o Vivenza, se di origine italiana. E adesso riapriamo con il grandissimo compositore Ryuichi Sakamoto, da un disco splendido, uno dei più belli degli ultimi anni, uscito nel 2004, Chasm, un disco estremamente variegato, poliedrico nella costruzione complessiva, in cui presenta un brano estremamente rumorista, perfettamente dentro la sonorità e le sonorità che andremo a intercettare in questo secondo spezzone di trasmissione. È uno splendido lavoro intitolato Coro, che aprirà la seconda parte. Ryuichi Sakamoto. Thank you. Due modi di intendere il rumore in Giappone, quello di Ryuki Sakamoto, artista eccezionale, eccezionale per quanto possa essere poliedrico, ma non così tanto per dire come si presentano certi artisti così vagamente poliedrici. Con Sakamoto veramente si va dal techno pop al rumorismo, che non sfidava addirittura anche il personaggio che abbiamo ancora in sottofondo per arte del rumore e per uso manipolatorio appunto della materia sonora più difficile da utilizzare. Quindi chi è all'ascolto e sta dicendo le solite stupidaggini del tipo "sono capace pure io", benissimo, provate a farlo, perché è una cosa di una difficoltà che non potete neanche immaginare. Ve lo dicono due che cercano di spippettare da un po' di anni sul pistolare, spippettare, pistolare, spippettare, perché poi siamo anche un po' pipaioli, come dire. Però insomma, è veramente dura, e soprattutto avere una maestria sul rumore bianco, sì. Appunto un grande maestro che tra l'altro è passato una settimana fa da Bologna, e tutti veramente gli astanti sono rimasti sconcertati, ma nel senso buono, perché Merzbo riesce anche a creare dei momenti di pura ipnosi sonora, dove l'ascolto veramente diventa un'altra cosa rispetto al, non soltanto al solito ascolto, ma anche proprio a una fruizione che diventa quasi metafisica a un certo punto. Ci si stacca veramente anche dalla materialità di un suono che è brutista, ma ha un primo impatto. Poi appunto dentro il rumore bianco Merzbo riesce veramente a trovare delle stratificazioni, dei richiami, delle vocazioni che sono veramente incredibili. È una discografia immensa che veramente stratifica lo stesso anche proprio lavorare di Merzbo nel corso dei 30 anni e più, visto che è iniziato nel 1979 la sua carriera nel disastro sonico più meraviglioso che si può pensare. Poi ovviamente è il compositore che lavora meglio sul rumore bianco esistente in questo momento, rumore bianco, e poi sul rumore appunto anche questa sera stiamo mettendo personalità di un certo spessore, ma appunto sulle frequenze, su dei suoni che vanno veramente su appunto a coprire l'intera gamma sonora, e appunto in quel senso rumore bianco veramente Merzbo è magistrale. Da quindi il Giappone strano di Sakamoto, che appunto dal pop più cristallino passa poi al rumore anche più brutista, però trattato sempre con grande capacità compositiva e anche forse anche pop, tra virgolette. Anche pop, è vero. Infatti veramente quasi magica la mano di Sakamoto, poi appunto Merzbo per unire questa strana voglia giapponese che esiste da tanti anni di lavorare sul rumore. I giapponesi sono grandi maestri in questo senso. E appunto dalla terra giapponese andiamo in Europa e andiamo a trovare dei personaggi che hanno iniziato addirittura già dagli anni 70, come frigezzisti e improvvisatori radicali dal 72 in poi, poi costituendo un progetto che si è sviluppato negli anni e si è spostato verso un rumorismo sempre più marcato. Ed è stato questo progetto composto da autori importanti come Moslang e Gull, ma poi aggiuntosi anche successivamente il grande Günther Müller, che abbiamo in passato diverse volte fatto passare da 451 frammenti sonori. Il progetto è Voice Crack, che ha chiuso, diciamo, i battenti nel 2004 nel disco che andremo adesso ad ascoltare, che è considerato da molti uno dei migliori degli ultimi anni, prima proprio della chiusura del progetto, è uscito nel 2002, Buddha Rom. Voice Crack, questo appunto progetto misto tra francesi e svizzeri, dunque in questa parte d'Europa che non spessissimo attraversiamo come 451, ma che alle volte emergono degli autori e degli artisti sicuramente interessanti, terra francese sicuramente più esplorata, quella svizzera francamente molto poco. Anche se poi Merzbow si rifà proprio a Kurt Schwitzler, sì, che era svizzero, è vero, artista si rifà, non è che sì, ci siano tanti autori svizzeri che conosciamo che passano attraverso la nostra trasmissione, ma non per volontà come al solito, insomma. Un discorso che abbiamo già fatto in passato. Comunque, Voice Crack, in questo lavoro registrato oltretutto nel 2000 due città abbastanza particolari come Budapest e Roma, oltretutto anche qua in Italia, dunque, e musicisti che hanno visto anche la presenza come collaboratori in questo progetto anche del grande Jim O'Rourke. Un lavoro che si muove, questo uscito appunto nel 2002, Buddha Rom, tra improvvisazione, che è comunque un dato abbastanza fondante di questo progetto, e appunto aspetti più squisitamente rumoristi. Ma il rumore entra in una dinamica sicuramente differente dal rumore bianco e dall'architettura sonora costruita da Merzbow o in parte anche da Sakamoto nel brano che abbiamo ascoltato. È un rumore che attraversa momenti anche di assenza, di silenzio, che intervallano appunto una sorta quasi di dialogo fra rumori, suoni, registrazioni esterne e rumori creati anche da strumenti elettroacustici e in parte anche elettronici. Dunque un approccio differente, ma l'obiettivo ovviamente è quello di far suonare il rumore, di far uscire l'aspetto rumorista come un aspetto estremamente ricco di frequenze, di sonorità, di melodie, di armonie, di ritmiche che al primo impatto non sono assolutamente riconoscibili, ma che poi attraverso una sorta di immersione dentro il flusso concettuale e strutturato poi concretamente materialmente dai musicisti riesce a portare l'ascoltatore dentro un universo assolutamente nuovo. Ed è una cosa sicuramente affascinante, come è affascinante il fatto di calarsi dentro una struttura che in realtà attraverso vari ascolti sembra appunto disegnare, dipingere degli scenari o delle dimensioni differenti l'una dall'altra. Questa è anche una delle ricchezze della strutturazione che viene appunto realizzata da Voice Crack in questo album Buddha Rom. Andiamoci a sentire la traccia, esattamente la traccia numero 12, e che non c'è, dunque la traccia lo scherzetto, però scherzo da futurista, era un po' futurista, diciamo. No, la traccia numero 4, Buddha Chu, che poi le hanno, diciamo, estrinsecate con 1, 2, 3 e 4. Sì, questa è quindi di Budapest, perché questa Roma, è di Buddha Rom. Bravo, non sai che non c'ero arrivato, caro mio giochino. Vede un po' il rincoglionimento della domenica. Effettivamente Buddha Rom è un giochino tra Budapest e Roma. Bravo. Bene, Voice Crack, stupendo progettualità che appunto, come diceva prima Elisè, è uscita un po' dall'impro radicale degli anni 70. Eh sì, dal 72, è un lavoro, un progetto, quello che è partito dagli anni 70, è estremamente interessante, che negli ultimi anni di vita di questo progetto, che ricordiamo ha chiuso i battenti nel 2004, si è spostata sempre più verso dimensioni noise e dimensioni anche più elettroniche. Il progetto era partito da una dimensione prettamente elettroacustica, di improvvisazione radicale, e negli anni comunque si è saputo reinventare, anche perché dal 72 fino al 2004, insomma, ci sono ben 32 anni di vita per un progetto, che non è poco, anche se c'è 72, stato... 72, 40 anni, caro mio. 2002, no, 32 anni, ti sbagli, non 72, 72, 2004, 32. Ah, dell'album, sì. Però, perché non esistono più. No, perché non esistono più. E poi diciamo che comunque negli anni 80 hanno avuto un periodo sicuramente un po' di spostamento, ogni autore si è mosso su binari propri, e in realtà poi non sono uscite grandi produzioni, sono ripartiti in grande negli anni 90 per poi far uscire ben 4 album tra il 2000 e il 2004. Da Voice Crack andiamo invece a trovare, rimaniamo poi in realtà in parte dentro una dimensione che rimane anche legata all'Europa, con un progetto che comunque si rifà e comunque è presente in maniera importante, no? Sì. Zeitkratzer, White House, dunque un progetto che è riuscito a attraversare dimensioni sonore piuttosto variegate, perché si è mossa veramente su atmosfere e stili molto differenti fra di loro, attraversando anche dimensioni jazzistiche in parte, per arrivare a forme elettroniche e anche a forme più squisitamente rumoriste. Il nome ha ovviamente Zeitkratzer, una derivazione tedesca, ma in realtà dentro questo progetto ci sono anche autori che arrivano e hanno collaborato dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. Sì, sì, beh, è un ensemble che avvicina la musica contemporanea, però con quel sicuramente atteggiamento, attitudine che l'avvicina anche alle non accademia, quindi ai rumorismi anche fatti fuori appunto dall'industrial fino al rock. Zeitkratzer, eccezionali nel recuperare Metal Music Machine di Lou Reed, album assolutamente, esatto, album assolutamente geniale, sia il primo per un effetto deflagrante, uno come Lou Reed fare un disco di puro rumore come Metal Music Machine, che stasera tra l'altro non avrebbe affatto sfigurato, no. Arrivare a lavorare con John Duncan, quindi americano, ma dentro Los Angeles Free Music Society, storica collettivo dada futurista e rumorista e quant'altro si possa aggiungere a questi pazzoidi incredibili. Poi lavori che hanno trattato Cage, che hanno trattato Stockhausen, anche in quest'ultimo periodo, Avi Lussier, insomma, faccende piuttosto grosse. Hanno lavorato con Castel Nicolai per quanto riguarda l'elettronica, con lo storico giapponese Kajaino, insomma, veramente assolutamente prolietici e grandissimi autori di musiche non convenzionali. Zeitkratzer, tra l'altro c'è pure un personaggio assolutamente geniale come Frank Grachtowski, che aveva già collaborato tra l'altro anche proprio con Merzbo, ma vari, insomma, non ne stiamo a citare tutti perché è un'orchestra, sì, in sostanza. È un collettivo aperto che ha avuto vari attraversamenti di vari autori, ne troviamo veramente tanti, e cambia poi ovviamente stagione dopo stagione, sì, attraverso nuovi musicisti che lo attraversano. Tra elettronica, free jazz, quant'altro contemporaneo, più veramente ne mettete più ne trovate in Zeitkratzer, tra i combi più importanti sicuramente di questo decennio. Hanno trattato anche White House, quindi altro rumore assolutamente devastante, e per un un'orchestra di musica contemporanea, anche se non convenzionale, come Zeit Kreuzer, è stata veramente un'impresa, riuscitissima, visto che anche lui collabora, William Bennett, furiosità incredibilmente controllate in maniera quasi stupefacente, appunto, in Zeit Kreuzer e in White House. French had all these highly mechanized instruments of warfare. But they put some guerrilla action on them. And a white man can't fight a guerrilla warfare. Beh, tra le esperienze estreme che si possono fare a livello di quasi paura sonora, di terrorismo sonoro, senz'altro genocide organ o genocide organ, forse detta più la tedesca, visto che sono tedeschi, già dalla metà degli anni 80 ottivi, con quel suono che proveniva proprio dai White House, quella corrente scena che si è voluta definire Power Electronics, che era appunto derivata da White House, che hanno creato proprio questa corrente, questa filiazione nata poi dentro l'industrial music e tutta la scena quindi varia e variegatissima di quel periodo storico. E due modi appunto di trattare White House: uno con Zeitkratzer, che sicuramente fanno della materia sonora bruttista Power Electronics di White House anche un percorso compositivo piuttosto controllato, nel tutto insomma anche mettiamoci dentro un uso del rumore anche piuttosto feroce, però appunto dentro una composizione che non va mai fuori appunto da quello che è una strategia anche dell'utilizzo del rumore. Invece con Genocide o Genocide Organ si va proprio dentro questa fuoriuscita, questa provocazione continua del rumore, quindi Power Electronics come intesa come suono provocatorio, si vuole provocare insomma una sorta proprio di reazione anche piuttosto forte da parte dell'ascoltatore, quindi che non sia soltanto più tale, ma che sia proprio invaso da queste sonorità rumoriste assolutamente potenti e defagranti, una sorta appunto di esplosione plurima, quella di Genocide Organ, che provengono appunto dalla Germania. Due modi appunto di intendere il Power Electronics, forse anche antitetici, proprio per questo ci interessava dentro l'arte del rumore inserire e affiancare Zeitkratzer insieme a Genocide Organ. E da Genocide Organ, che è veramente spettacolare in termini di impatto sonoro, molto molto efficace, molto duro, molto violento nel senso buono, anche se si può dire violento nel senso buono è un po' una forzatura. Vabbè, aggressivo, ma violento, musica poi violenta poi per tanti aspetti. Sì, l'accezione violente poi dipende anche in che modo si vuole declinare, però diciamo un ottimo lavoro, un progetto assolutamente ancora attualissimo in termini di sonorità, come d'altronde anche il progetto che andiamo adesso ad ascoltare, Dead Machines, un duo costituito da Olson e O'Rourke, non Jim O'Rourke, sì, ma bravissimo, Dead Machine, nati nel 2003, che hanno lavorato e collaborato ovviamente dentro anche Wolf Eyes, escono dalla scena americana, la New Noise americana degli anni zero, progetto assolutamente eclettico perché in parte si riferisce fa chiaramente in maniera forte all'aspetto rumorista nato negli anni zero americani, ma anche forti riferimenti rispetto a tutta la scena dell'improvvisazione, dell'avanguardia anche europea, dagli NMM a progetti che hanno attraversato insomma 451 parecchie volte, che hanno segnato le sperimentazioni improvvisative degli anni 60-70, e fondono questi due elementi costruendo un suono, un rumore che lavora molto con i feedback, con la tecnica del voice crack, il progetto voice crack non a caso si chiamava anche per questo, queste voci assolutamente manipolate, rese stridenti, aggressive, lancinanti, utilizzate molto dai Dead Machines, che continuano la loro produzione anche con dei CD autoprodotti, con delle produzioni anche diciamo quasi da strada, ecco, hanno un atteggiamento sicuramente molto underground in questo approccio, e andremo a scovare in questo caso il disco del 2005 Futures, che è diciamo uno dei dischi ufficiali. Sì, poi tra l'altro il disco forse più celebrato, giustamente anche del giustamente Machine. Però bisogna anche ricordare, perché se andate a scorrere un po' le produzioni di Dead Machine, insomma, ne trovate di cotte di crude, CDR, LP, un sacco veramente milioni e 200 di cassette, dunque stanno veramente produzioni impressionanti, perché veramente hanno una fecondità produttiva incredibile. Progetto comunque che fa parte della scena americana che abbiamo affrontato in tante puntate in precedenza, ma che in questo progetto, diciamo, l'abbiamo forse solo sfiorato una volta, e dunque abbiamo voluto reinserirlo nel contesto di stasera dell'arte del rumore. Ci andiamo a sentire dunque Dead Machine da Futures 2005. Thank you. Grandissimo i Kites, che poi in realtà come progetto è un one man band, perché si tratta di un harsh noise artist come Christopher Forges, che è appunto l'unico personaggio di questo progetto, anche lui della scena americana. Non a caso l'abbiamo abbinato a Dead Machine, la scena New Noise, la definisco così perché mi piace, degli anni zero americana. Personaggio assolutamente eclettico, con alcuni elementi che chiaramente ricordano, soprattutto nella prima traccia che abbiamo ascoltato, con questa vocalità assolutamente quasi devastata, tra la devastazione e la rabbia che arriva al parossismo, ricorda molto certa industriale degli anni 80 e non solo. Dunque c'è un richiamo sicuramente a un elemento più stradaiolo, se vogliamo dire in questa maniera, ma comunque più pestone, come dice Max, ecco, cito Max, meravigliosamente pestato, molto pestato, ma sicuramente un altro progetto che è tra le punte di diamante comunque della scena noise americana. Non a caso gli stessi Kites, lo stesso Kites, potremmo dire così, ad personam, ha lavorato e ha portato avanti anche dei tour insieme a Prurient e a Airpolis, altra formazione importante della scena americana noise, e dunque personaggio sicuramente da seguire. L'album in questione è un disco che è uscito nel 2005, credo, sì, Peace Trials dovrebbe essere, anche se non ce l'ho sotto mano, non so dove è finita la lista. C'è comunque. c'è la lista, se vuoi te la tiro fuori. Vabbè, pazienza. Comunque, no, dobbiamo essere precisi, ma dovrebbe essere Pistrier. Passamela. Ecco, facciamo le cose in dire Pistrier. Giusto, l'avendo detto Pistrias per la Load Records. E da Kites andiamo a trovare un altro personaggio importante. Sì, beh, se abbiamo così dedicato una parte, insomma, agli americani, ai noise, non potevano non mancare nell'arte del rumore, visto che negli anni zero hanno fatto veramente, hanno riaperto le fabbriche per certi versi del rumore. E poi le hanno chiuse a livello di crisi mondiale. Vabbè. Sì, infatti, quelle del rumore, anche quelle tra l'altro sono state chiuse, visto che sono passati poi a fare altro, insomma, tutti questi vari personaggi di Brooklyn, di Providence, di californiani, insomma, vari interstatali americani, mettiamola così, stanno facendo anche altro, insomma, si sta muovendo verso un suono più cosmicheggiante l'intera scena noise, oppure più impro, ma comunque tant'è che, insomma, rimane sicuramente insieme al folk and drone forse le due scene più importanti degli anni zero, sicuramente, anzi potremmo dire questo. E se invece ci spostiamo e quindi così lavorando con varie filiazioni dell'arte del rumore, andiamo a trovare digitalismi estremi, sicuramente andiamo nel terreno dell'Amigo e sicuramente tiriamo fuori un personaggio che non abbiamo trattato tantissimo, forse un po' a colpa anche qua 451 frammenti sonori. Beh, lo facciamo stasera, in genere mettiamo un altro hacker che Team Hacker, sì. Questa sera invece hacker e basta. Digitalizzazione decisamente interessante quella di Hacker, perché dal glitch è arrivato a digitalizzare in maniera talmente estrema da creare un rumore digitale assai originale, che nel 2011, appunto, con il disco che stiamo per mettere, è veramente riuscito a creare una sorta di magia quasi dal computer, speculative solution, infatti soluzioni speculative, proprio appunto questo gioco di specchi col suono digitale portato all'estremo, crea questa sonorità defagrante attraverso un suono assolutamente e completamente digitale. Statelo ad ascoltare, perché è decisamente interessante come tratta appunto una materia che potrebbe essere fredda e che per tanti versi anche è arrivata a un punto morto. In realtà con Hacker si raggiunge invece un nuovo approdo. Sì, oltretutto ricordiamo tedesco, nato a Augsburg nel 1975, dunque anche abbastanza vicino. Sì, abbastanza giovane per certi versi, e vecchio per altri. Infatti. Hacker. Sentiamo. Thank you. Se prima dicevamo che negli anni zero le scene più vive sicuramente sono state quelle dedicate al folk and drone, al noise americano, forse ci siamo scordati, ma forse maliziosamente, del dubstep. È strano in effetti, Nick Ewers, giovanissimo, Ecoplex, progetto giovane appunto quanto giovane è lui, già con 10 CD dal 2010 al 2012, non si sa come abbia fatto insomma a fare così tanta roba, e qualitativamente anche piuttosto alta, soprattutto questo disco del 2011, Intrusive Incidentals, gioca sempre con queste Z, ed è un modo di trattare il dubstep veramente estremizzandolo e portandolo verso quegli effetti di dubbizzazione e rumorista che comunque dentro molto dubstep c'è. Lui lo porta appunto a maniera piena a fare, insomma, scoppiare e quindi far, insomma, esternalizzare questa, questa, insomma, anche materia bruta che ha il dubstep, tutta sotterranea, tutta sub, in effetti dentro e sub, in effetti è musica che comporterebbero un'impiantistica, insomma, di un certo livello, non ce la possiamo permettere. No, purtroppo, no, purtroppo per il momento no. E quindi con Ecoplex si porta, insomma, all'estremo, nel vero senso della parola, quindi all'esterno, a questa natura rumorista che è dentro comunque il dubstep. Molto interessante come personaggio, seguiremo sicuramente questo, sì, anche perché è proprio Ecoplex, nuovissimo, sì, nuovissimo, sì, sì, ha un po' la faccia da nerd, sì, però sulle macchine, sulle macchine sembra un po' l'ingegnere oppure, sai, l'esperto di computer, sistemista. C'è anche una bella riga, c'è, viene, anche una riga un po' antica come stile. Comunque sì, effettivamente questo Nick Edwards è un personaggio che dobbiamo seguire perché è proprio recentissimo, è iniziata la sua produzione nel 2010, dunque neanche 2 anni fa. Bene, abbiamo finito l'arte del rumore, l'arte siamo passati rumore. Veramente dopo l'arte dei pazzi all'arte del rumore, la facciamo sempre appunto, e siamo anche piuttosto durante bravi durante la settimana forse. L'arte dei pazzi e poi alla fine l'arte del rumore per darci un po' di qualità. E a questo punto ovviamente vi lasciamo a non lo so a che cosa, insomma, al nastrone, a queste settimane infinite, o la settimana questo nastrone, a parte che poi il nastrone veramente è un termine vinto. Ma è molto, molto da Radio Libera, no? Fondamentalmente. Sì. Comunque, insomma, la programmazione notturna di Radio Città del Capo è la settimana devastante in bocca al lupo. Insomma. È la settimana devastante che ci aspetta. Dunque, in bocca al lupo per tutto, se ce ne sarà ancora bisogno. Crepi i lupi, non ce n'è una e basta. Ecco, e ci dovremmo rivedere, rivedere soprattutto quello, sì, sicuramente. Risentire in trasmissione per domenica prossima, forse, anche se non c'è la certezza, certo, perché c'è un forse del domani non c'è certezza, ecco, diceva quello. Teniamo così, del domani non c'è certezza, finiamo così, finiamo sicuro così. Ma va bene, sì, dai. Buonanotte, buonanotte.